Massimo. Sì, eccomi qua. Perché sei offeso? No, beh, a parte l'affinità elettiva mia personale col maiale, nel quale mi riconosco. Guarda, io ho allevato e scannato maiali sin dalla tenera età, quindi figuri. Bene, allora assaggia. Sono umbro. Il maiale è un animale intelligente e pulito, in sostanza. Beh, pulito, cioè... oddio, pulito. L'animale può essere anche pulito. Gozzoviglia nei suoi liquami. No, questo che sta dicendo è falso. Il maiale, al contrario del cane, sì, defecca da una parte e mangia dall'altra. Certo che se poi uno lo costringe in spazi angusti, il maiale di suo è un animale intelligente. Io le porcellaie che mi ricordo ai miei tempi dei contadini umbri erano 2 metri per 2 metri, dove c'era di tutto. Allora, per forza, anche a me se mi mettono in 2 metri per 2 metri finisce che mangio dalla faccia. Ma questa però è la realtà da cui vengo. Io le avrei da grandi allevamenti di maiali intensivi. No, io allevavo 5 maiali per uso personale, modiche quantità. Scusi, ma quante volte al giorno gli puliva lo strame? Sei molto bravo, io lo vedo fare la sera ogni tanto, venivano coi forconi, portavano via, buttavano in concimaia, uno schizzo d'acqua e finiva lì. L'animale di bassa corte, nel quale io includo anche il maiale, fa la fine che fa, ma prima di fare quella fine deve essere tenuto come va tenuta una creatura, e quindi va tenuto pulito. Ma infatti viene lavato e poi una volta scannato viene ben spellato con l'acqua bollente, quindi poi torna pulito. Erano puliti già al momento del trapasso, erano dignitosamente puliti. Lei c'ha i maiali perfetti, 3 porcellini alleva. Io sono abituato che i maiali puzzano, sono buoni dopo mangiati. Comunque non vorrei entrare adesso nello specifico del maiale. Considero riscattato il maiale dalla sua gloriosa fine. Il maiale, quando risorge, quando si immola, quando già viene visto con l'occhio come se fosse quelle miniature che mostrano i quarti posteriori, inferiori, i pezzi da tagliare. Il maiale è un animale che si smonta. Vorremmo essere noi esseri umani, esseri smontabili, con pezzi di ricambio, con pezzi che possano gratificare il nostro prossimo, ma ogni pezzo da cui ci separiamo lo facciamo sempre con molto dolore, anche se la separazione è momentanea, metaforica, e rimane sempre qualcosa di attaccato a noi.